Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Abbiamo deciso oggi di occupare per la prima volta un laboratorio di sezione. In particolare abbiamo occupato gli stabulari, un piano intero al cuore di animali destinati a essere torturati. Io sono viva grazie ai medici, ai farmaci, grazie anche agli animali che sono stati sacrificati per trovare quei farmaci. E mi hanno detto, meglio 10 topi vivi che non te viva. Boh, cioè, non lo so, dove vivete, da chi siete stati cresciuti. Questa è roba vecchia che appartiene al nostro passato, ricordate? La conquista degli stabulari a Milano, dei riciclatori del CNR per salvare la vita ai poveri topolini innocenti, la ragazza con una malattia rara che si è dichiarata a favore della sperimentazione animale, che è stata massacrata via mail da quelli che dicono meglio che morite piuttosto che schiattano i topolini. Questo fa parte del nostro passato, adesso vi racconto una storia che invece appartiene al nostro presente, una storia che, della quale non ho visto grande eco nei giornali, perché evidentemente sono cose molto importanti. Però vi dico la parte mia, trovare degli sponsor che finanzino, sostengano comunque delle associazioni no profit che realmente si occupano di problemi legati alla sofferenza, legati alla malattia, è molto raro. E questo era accaduto a Busto Arsizio. Ci sarebbe stata una bellissima partita di volley femminile di serie A1 con la locale squadra la Futura Volley, unendo Yamamai di Busto Arsizio e la Robur Tiboni Urbino. Partita di volley importante, sarebbe dovuta svolgere a Busto Arsizio sabato. Sarebbe stata una bellissima partita perché a latere di questa partita sarebbe stata una raccolta fondi per la ricerca per la sindrome di Rett, che è una malattia rara, molto insidiosa, molto grave, colpisce le bambine da 6 ai 18 mesi, cominciano a perdere la facoltà di parlare, di muoversi, hanno crisi epilettiche, una malattia della quale al momento non si conosce la cura. A Busto Arsizio, guarda caso, c'è un importante laboratorio, l'Università degli Studi dell'Insubria, che stava studiando, appunto, facendo ricerca sulla sindrome di Rett. Questa partita ci sembrava una cosa fantastica, avrebbe raccolto fondi, fatto una lotteria per sostenere questo laboratorio, per sostenere la ricerca per questa malattia. Ma la partita c'è stata, ma la raccolta fondi non c'è stata. Come mai non c'è stata? Roberto Tisato, buongiorno. Buongiorno. Presidente della ProRett Ricerca, associazione per la ricerca sulla sindrome di Rett. Perché non c'è stata la raccolta fondi in questa partita? Ma fondamentalmente perché nel momento in cui abbiamo cominciato a fare pubblicità, ovviamente in rete, sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook di questa bellissima iniziativa, è cominciata un'attività di boicottaggio fatta sotto forma di mail bombing e anche di telefonate ai dirigenti della squadra di pallavolo, quelli che dovevano effettivamente darci questi spazi e realizzare questa attività. Ecco, come sarebbe svolta la raccolta fondi? Una lotteria? Come avete previsto? Una parte degli incassi? Sì, abbiamo fatto, in realtà tra l'altro gli incassi non erano devoluti a noi assolutamente, c'era una lotteria che ci sarà ancora perché l'abbiamo semplicemente spostata, c'era una lotteria e, ovviamente nella quale avevamo venduto biglietti, c'era la possibilità, volevamo vendere sinceramente la maggioranza dei biglietti in occasione appunto dell'evento e poi fondamentalmente ci sarebbe stata questa pubblicità, questo farci vedere, questo far sapere che cosa facciamo, far conoscere la malattia, perché non c'è solo la raccolta fondi di problematico in Italia, è anche far conoscere quali sono queste malattie rare, che sono dette anche orfane, proprio perché alle case farmaceutiche non sono minimamente interessanti. Perché hanno poche, poche persone sono colpite, quindi non c'è grande interesse generale a fare ricerca nei confronti di una malattia che poi venderebbe poche medicine, diciamocelo francamente. Esattamente questo, come ha detto lei. Mi dice esattamente in due parole di cosa si tratta la sindrome di Rett, perché essendo rara e anche poco conosciuta, così facciamo capire anche di cosa stiamo parlando. Certo, è una malattia genetica non ereditaria, quindi nasce da una mutazione spontanea che può capitare semplicemente, capita per fortuna raramente, quindi circa una volta su 8.000, colpisce le bambine perché in realtà colpisce anche i maschi, ma è così grave e siccome è presente sul cromosoma X e questo gene è mutato, i maschi ne hanno solo uno, le femmine ne hanno due, quindi le femmine in qualche maniera riescono a sopravvivere, i maschi invece normalmente hanno una forma così grave che non riescono a sopravvivere al primo anno di vita. Che cosa fa? Per i primi due anni si può dire che è quasi silente, le bambine sono malate ma in realtà non si vede nulla, le bambine crescono normalmente, sono splendide come tutti i bambini che stanno crescendo, conquistano le prime appunto conquiste, quindi cominciano a camminare, cominciano a parlare, cominciano a giocare. E improvvisamente nel giro di pochissimo tempo, una settimana, due settimane, massimo un mese, circa due anni, questo succede, c'è il momento che si dice della regressione, nel quale le bambine proprio progressivamente nel giro di pochi giorni perdono la capacità di camminare, la capacità di usare le mani, non parleranno mai più. E questo è solo l'inizio, perché poi da questo momento in poi cominceranno tutta una serie di altri problemi, fra cui crisi epilettiche, scoliosi gravissime, disturbi gastrointestinali, che le portano ad avere una disabilità veramente, veramente. Ecco, importante. A Busto Arsizio c'è un'associazione che raggruppa, penso, genitori o parenti o persone che sono interessate a questo problema. Quindi per questa ragione avete sensibilizzato la locale associazione sportiva per poter fare questo tipo di attività. Ma come vi hanno risposto per dire che non si faceva più la raccolta dei fondi? Ma in realtà è stata una decisione praticamente condivisa. Noi avevamo conoscenza quotidianamente di tutte le mail e le telefonate che arrivavano a questa associazione e con i dirigenti dell'associazione abbiamo detto guardate, ormai non ci sono più le prerogative, non ci sono più la situazione che speravamo si creasse, una situazione di gioia, perché c'erano delle ragazze in campo che aiutavano le loro sorelline più piccole, era tutta al femminile, c'era una solidarietà al femminile, era bellissimo. Ma qual era il senso della protesta? Perché non dovevate fare la raccolta di fondi? Perché si continua a perpetrare questa bugia, che questa raccolta di fondi sarebbe andata a finanziare la vivisezione, cosa che in realtà è vietata ormai da un bel po' di anni. Non è vivisezione, è sperimentazione animale. Quindi sperimentavano sulle cavi, sui topolini, quello che poteva essere una terapia, e bastava quello. 800240024, intanto chiamo il pubblico a dare un proprio contributo a questo tipo di operazione. Non voglio prendere posizioni questa mattina rispetto ai punti di vista di ognuno, ma un punto di vista, una presa di posizione ideologica, una visione del mondo, una religione, una fede, chiamatela come volete, non può impedire comunque un'azione concreta e pratica importante come la ricerca su una malattia così grave. Quindi da questo punto c'è stato un imbarazzo, le telefonate e le mail hanno creato un problema generale per cui la gente cosa aveva? Paura che succedesse qualcosa durante la partita, manifestazioni, sollevazioni di piazza, che doveva succedere? Infatti onestamente non lo sappiamo, i dirigenti ci dicevano che veniva sicuramente garantito il boicottaggio degli sponsor della squadra di pallavolo, quindi Yamamai e Unendo Energia, e a questo punto per evitare, per motivi di ordine pubblico, si era interessata anche la questura, aveva detto guardate che abbiamo sentito anche noi che c'è questa attività prevista, e i dirigenti insieme appunto con noi abbiamo detto è inutile fare le cose. Ma è così potente l'azione, scusate, a Busto Arsizio delle associazioni animaliste, della LAV, non so chi si è mosso, che riescono a bloccare la ricerca su una malattia rara? Cioè, siamo un paese in cui una protesta via mail di persone che hanno in pieno diritto di manifestare il loro punto di vista riesce a bloccare un'azione così importante come degli sponsor che finanziano una ricerca? Alla fine sì, lo possono fare perché vanno ovviamente a toccare interessi economici, nel senso che tutto sommato dal nostro punto di vista se fossimo stati sicuri che non ci sarebbero stati problemi di ordine pubblico, uno poteva anche dire vabbè, la facciamo lo stesso. Rischiamo. Però ovviamente se vanno a toccare lo sponsor di una squadra di pallavolo, e sappiamo che anche le squadre di pallavolo, poverine, e come tutte le squadre sportive, vivono sugli sponsor. Ma cosa produce lo sponsor, per capire cosa fanno? Yamamai è un'azienda che produce abbigliamento. Ah, quindi non compriamo più i vestiti Yamamai se voi sponsorate questa cosa. Esatto, ecco. Intimo. e unendo energie. Ah, non ci mettiamo più le mutande Yamamai se voi non. Se voi uccidete i poveri topolini. Sì, esatto. Sinceramente le mail parlano soprattutto di reggiseni, ecco. Ah. Che non sarebbero più stati acquistati da Yamamai. Ma quante potranno essere le animaliste di Busto Arsizio e che non si mettono il reggiseno Yamamai? Cioè, perché io vorrei vedere anche in termini concreti, cioè, sarebbe esplosa nel mondo questa cosa, cioè, quante tette sarebbero rimaste scoperte del reggiseno Yamamai per questa cosa qua? Questa è una bella domanda, sinceramente. No, perché voglio i numeri, 10, 20, 50, non lo so, quante saranno state? Mi verrebbe da dire poche decine, sinceramente. Ecco, per poche decine di tette hanno impedito questo tipo di raccolta. Mi sembra molto singolare. Angelo, buongiorno. Buongiorno. Sì. Senta, io volevo dire che mi sembra abbastanza stupido che in Italia è ammesso sparare agli animali per divertimento, che questa gente se la prenda con gli scienziati e con quei disgraziati che hanno bisogno delle medicine. Disgraziati è una parolaccia, tu, disgraziati. No, persone che hanno bisogno. Persone sfortunate che hanno bisogno. Sì. Delle medicine per poter vivere in qualche modo. Non di qualche ma io dico una cosa in più, ma perché non se la prendono con dei rattizzatori? Scusate, prima di andare alle decine di topi che salverebbero delle vite, ammesso che questa sia una loro. Perché non vanno dalle società di rattizzazione che ne ammazzano migliaia? Io comincerei con loro se proprio voglio occuparmene. Professoressa Nicoletta Landsberg, ho pronunciato bene? Landsberg. Lei dirige due laboratori di ricerca dedicati allo studio della sindrome di Rett, uno all'Università di Insubria Busto Arsizio e l'altro a San Raffaele di Milano. Esattamente. Solo una battuta, poi riprendiamo dopo la pausa. Come avete, diciamo, subito voi questo tipo di attacco? A me sembra ridicolo, folle, che per non vendere due reggiseni si fermi il sostentamento a una ricerca così importante. Allora, vorrei dire che secondo me probabilmente il problema è più grosso, ci sfugge qualcosa e non era un problema di vendere, credo, due reggiseni, e devo dire che la Yamamai si è veramente fino all'ultimo schierata al nostro fianco, poi ognuno potrà trarre la propria conclusione, ma fino all'ultimo ha cercato di mantenere l'evento. Ma chi è che ha ceduto un ricatto? Un ricatto c'è stato, chi ha ceduto? Un ricatto c'è stato e io non glielo so dire, ho la sensazione che hanno subito delle pressioni, però le dico una sensazione più a livello di questura, ma possibilità di mantenere l'ordine pubblico. Cioè non volevano noie, volevano gestire. I proprietari della palazzina dove si gioca, fino all'ultimo Yamamai ha cercato di essere con noi, ceduto il ricatto che noi non conosciamo oggettivamente. Allora, professoressa, era solo per farle sentire la voce, so che è in treno. Mando velocemente le informazioni del traffico, pochi secondi, e riprendo con lei che ci spiega esattamente cosa si tratta. Melog, cronache meridiane. Guardate che ho uno spirito veramente laico, io non me la prendo mica dico che sono stupidi, esagerati, fanatici, è la loro religione, è giusto che la possano esprimere, ma non posso impedire agli altri comunque di fare delle attività che sono considerate indispensabili per la ricerca. Mi sono interrotto un attimo, stavo parlando della vicenda, mi sembra singolare, unica, mi meraviglio che così pochi media abbiano dato rilevanza a questo fatto. Una partita di pallavolo a Busto Arsizio avrebbe dovuto finanziare, senza che nessuno mettesse soldi, all'Atrio, una lotteria, una ricerca molto importante per una sindrome molto importante, che è la sindrome di Rett, colpisce le bambine. C'è un laboratorio scientifico che fa ricerca su questo. Niente, degli animalisti hanno fatto casino, hanno mandato mail, hanno minacciato chissà quale azione, boicottare lo sponsor che vende reggiseni, comunque fatto, ce la sono fatta sotto e non hanno fatto questa raccolta fondi e adesso siamo qui a raccogliere mestamente, vergognosamente i risultati di questa azione. Stavo parlando con la professoressa Nicoletta Landsberg, che dirige due laboratori di ricerca dedicati proprio allo studio della sindrome di Rett, uno era proprio all'Università Insubria a Busto Arsizio. Professoressa, riprendiamo il filo, c'è stato un ricatto, non abbiamo strumenti per capire chi l'ha mosso, chi non l'ha mosso. Come lavorate voi nel laboratorio che avrebbe dovuto ricevere questo sovvenzionamento, sarebbe stato senz'altro utile, e è stato tacciato di essere una sorta di lager per poveri topolini? ovviamente quello di cui ci hanno accusato non corrisponde al vero, l'abbiamo provato a ripetere ovunque, sulle nostre pagine Facebook, l'abbiamo scritto agli animalisti, noi facciamo vero della sperimentazione animale, non si chiama vivisezione, che Tisata chiaramente detta è vietata. Sperimentazione animale significa che ogni qualvolta un esperimento non può essere effettuato sulle cellule in coltura o nelle provette, allora bisogna avvalersi di un animale. L'animale ci serve o per comprendere che cosa va storto nel cervello di queste bambine per poter intervenire, perché proprio gli animali ci hanno insegnato che potenzialmente la malattia è guaribile, o ci serve, non ci siamo ancora in questa fase, ma speriamo presto noi o chiunque altro nel mondo, per provare un farmaco. E questo è un punto che, su cui io insisto continuamente, perché vale per la sindrome di Rett, ma vale per qualunque nostra malattia. Non c'è farmaco al mondo che possa entrare nel letto di un paziente se non viene precedentemente testato su un animale, in particolar modo in questo momento si usano in genere appunto quelle che voi chiamate cavie, che sono dei topolini. E la ragione per cui questo deve essere fatto è perché se anche un farmaco risulta funzionare, avere un effetto benefico su delle cellule in coltura, per cui va a bypassare un problema cellulare, molecolare, il problema è che poi bisogna controllare come il corpo risponde, come metabolizza questo farmaco, in modo tale che non ci siano effetti collaterali. La storia del talidomide è famosissima, 3.000 e credo oltre pazienti nati focomelici, perché il farmaco non è stato provato su dei topini. Allora, questa, professoressa, è la realtà scientifica. Abbiamo fino all'esaurimento proposto a questo microfono, chiamando anche il fiorfiore dei rappresentanti della comunità scientifica, biologi, genetici. Ci hanno detto la stessa cosa. Mi rendo conto che di fronte a una religione che è un atto di fede non c'è strumento razionale da contrapporre. Loro dicono: ma è tutta una grande truffa della comunità scientifica. In realtà questa sperimentazione sui poveri animali serve per alimentare e finanziare la ricerca fine a se stessa, non serve a niente. Detto questo, che comunque è un punto di vista, uno può avere tutti i punti se vuole, non trovo che sia giusto, non trovo che sia corretto, non trovo che sia legale, non trovo che sia tollerabile in un paese civile che questo impedisca comunque di fare la ricerca. Pensa quello che vuoi, fai le azioni pacifiche che vuoi, ma non puoi, è un atto di violenza secondo me impedire concretamente qualcuno svolga un'azione utile. Dennis, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Senta, io volevo fare una piccola osservazione, cioè gli animalisti, quelli che hanno interrotto la partita, secondo voi se avessero qualche familiare che avessero bisogno di ricerche o malati eccetera, l'avrebbe fatto lo stesso? L'abbiamo fatto mille volte. Io scinderei il problema dal fatto di come la pensano gli animalisti, il loro punto di vista. Hanno mille ragioni da opporre a questa cosa, dicono se c'è un familiare noi comunque ci battiamo lo stesso, non prendiamo medicine, piuttosto moriamo. È il loro punto. Immagina che una religione, di fronte a una religione, uno laicamente può dire professa il tuo credo, però non condizionare minimamente quella che è la mia azione, è la tua religione e vale per te. Angelo. Sì, buongiorno. Sì. Io appunto... non mi sento di condannare, come lei diceva, gli animalisti, però dico no, io cosa. Sì, perché è un'azione violenta, trovo che sia un'azione vigliacca, esatto, squadrista, di bloccare esatto, una raccolta questo fondi. Questo di per sé è un errore, di per sé non sono neanche animalisti, perché chi ama gli animali non dovrebbe neanche ragionare in questi termini. Io dico una cosa, io ho un cane, un gatto, un uccello, ho una tartaruga in casa, ma ho anche due figli. Se il mio cane, il mio gatto, potesse in qualche modo salvare la vita a mio figlio, a mia figlia, a mia moglie, probabilmente non a me stesso, ma quantomeno, ahimè, purtroppo è forse. Ma è chiaro, ma io ci faccio anche le salsicce col mio cane se devo dare da mangiare ai miei figli, ma figuriamoci. Ma non esiste, ma è chiaro, ma io la penso così. Però è un punto di vista. Torniamo al punto, torniamo a Roberto Tisato, che è presidente della Porretta. Vorrei sapere se come è stata vissuta all'interno delle famiglie questa vicenda, perché poi siete stati l'elemento più debole in tutto questo, che alla fine, passata la festa, ormai chi doveva provvedere all'ordine pubblico ha risolto il suo problema, lo sponsor è stato contento. Voi vi ritrovate però con lo stesso problema di prima e compenso molta frustrazione in più. Beh sì, vedo, dottor Nicoletti, è vero, è verissimo, abbiamo vissuto in maniera abbastanza amara tutto questo che è successo, però le devo dire appunto che la nostra vita, cioè la nostra quotidianità ha a che fare con problemi decisamente più grossi. Me ne rendo conto. Non dico non dico l'ennesima cosa che ti succede, ma tutto sommato non la viviamo in maniera così devastante, anche perché abbiamo avuto veramente un sacco di manifestazioni di solidarietà da quando appunto la notizia si è sparsa. La cosa che però veramente lascia la mano in bocca non è tanto quello che è successo, ma quello che non è successo. E cioè, secondo me, in un paese civile, come diceva giustamente lei, le istituzioni hanno il diritto di difendere il diritto alla salute. E questo è un diritto fondamentale dell'uomo, secondo me. E le istituzioni devono prendere parte, in questo caso, non parte a dire provetta ragione e gli animalisti sbagliano, ma devono semplicemente dare gli spazi. Ma posso fare una domanda? A parte noi che l'abbiamo chiamata questa mattina, quanta attenzione ha avuto in generale dai media su questo fatto? Quanti indignati sono stati? Quante persone vi hanno dato una telecamera o un microfono per esprimere questo che dice adesso lei? Le istituzioni dove stanno? Le istituzioni assolutamente non ci sono e non ci sono state, perché abbiamo avuto ancora prima che gli animalisti si muovessero, ci sono stati negati degli spazi all'interno della, e questo non, e mi scusi, ci sono stati negati questi spazi da parte delle istituzioni, non da parte. E perché negati? Per paura sempre che ci fossero problemi? Probabilmente sì. Cioè abbiamo un movimento animalista così forte che mette in ginocchio le istituzioni, mi fa piacere questo. Ma secondo me vige molto il non voglio problemi. Poi la gente vota e si fa vedere col cagnolino in braccio, si prendono più voti che passare per i cattivi che ammazzano i topolini. Ho fatto quello che potevo, ben poco, ma l'ho fatto veramente credendoci. A domani.